Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Davide Scagliola fa il fotografo. A Mumbai era arrivato 2 giorni fa per un servizio, è braccato dentro una clinica privata, parla al cellulare, si tiene costantemente in contatto con il consolato. So che ci sono moltissime vittime, io sono al sicuro, ma qui continuano gli attacchi. Con la giornalista del Gruppo Espresso, Marilena Malinverni, ieri sera erano andati al Caffè Leopold per bere una birra. Ci eravamo appena seduti quando abbiamo sentito un'esplosione e poi una raffica di spari. Era un inferno. Ci siamo buttati per terra. Abbiamo udito lo scoppio di una granata, altri colpi di arma automatiche. Carponi, siamo riusciti a uscire. Io mi sono rifugiato in un negozio che si trova al primo piano dello stabile di fronte. Poi mi sono spostato e sono arrivato qui. Marilena prigioniera nelle cucine dell'hotel Thai. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia Carmelo Lauricella. Vi ho letto una cronaca, una delle tante cronache drammatiche che arrivano dall'India. Hotel Thai Mahal, scrive il Corriere della Sera, l'inferno degli italiani negli alberghi sotto attacco, 30 connazionali, 12 sono ancora nelle mani dei terroristi. Io tra le altre cose personalmente faccio gli auguri a Marilena Malinverni, che conosco personalmente, è che oggi in questo momento so che è in quell'inferno, appunto. Il Corriere della Sera, tra le altre cose, come tutti i giornali credo di tutto il mondo, titola "Terrore in India, stranieri attaccati", ma Lorenzo Cremonesi a Milano è riuscito a intervistare Ahmed Rashid, l'intellettuale pakistano, e che è molto sicuro sulla, come dire, sugli autori. È Al Qaeda, non ci sono dubbi. Utilizza nomi di gruppi sconosciuti per rivendicare gli attentati, ma l'identità degli attentatori va ricondotta all'estremismo islamico e alle sue diramazioni in Oriente. Parla davvero a caldo Ahmed Rashid. Ieri sera eravamo a cena nel centro di Milano dopo la presentazione del suo libro Caos Asia, in vendita da Feltrinelli a partire da oggi, quando sono iniziate ad arrivare le notizie degli attentati di Mumbai. E la sua reazione è stata immediata. C'è da attendersi una recrudescenza del terrorismo di Al Qaeda in tutto il mondo. Colpiscono dove possibile. È un segnale forte contro Barack Obama ed un modo per acuire la crisi economica internazionale, sostiene l'intellettuale pakistano. Ancora gli si chiede, gli attentati sono stati rivendicati da un gruppo che si chiama Deccan Mujahideen. Cosa sappiamo di loro? Nulla che io sappia. Sono una firma sconosciuta, inventata probabilmente solo per confondere le acque. Qualche tempo fa un'altra organizzazione sconosciuta si era definita Studenti Musulmani della Jihad, ma non era mai stato appurato nulla. È una tecnica nota fatta per depistare. E allora chi sono i veri responsabili? Al Qaeda e coloro che si richiamano alla sua ideologia. Per quali motivi? Hanno operato con almeno 3 modalità tipiche della strategia del movimento. Sono attacchi coordinati, ben pianificati, frutto di una strategia mirata a provocare il massimo del terrore e in modo plateale, di grande forza mediatica. In secondo luogo vi sono coinvolti attentatori suicidi che si affiancano alla presa di ostaggi. Infine mirano ai grandi alberghi, al turismo di lusso, vogliono uccidere il maggior numero possibile di occidentali. In India gli estremisti indù colpiscono i cristiani locali, Al Qaeda invece agli occidentali. Un modo, tra l'altro, per affossare l'industria del turismo indiano sotto Natale. Questo dice Ahmed Rashid sul Corriere della Sera. Corriere della Sera che invece poi si occupa anche d'altro, ovviamente. Una tra queste notizie che avete già sentito più volte nei GR, erba l'ergastolo per Rose Olindo, e poi invece Massimo Gaggi dagli Stati Uniti firma un editoriale, Obama, le prime delusioni, e le delusioni sono indirizzate alla squadra, e dice: gente seria, onesta, preparata, ma sono davvero loro le persone più adatte per realizzare quel cambiamento che è stato il motivo dominante di tutta la campagna di Obama? Dopo gli apprezzamenti della prima ora per la scelta scelta di Tim Geithner e Larry Summers come ministro del Tesoro e super consigliere economico, ora sono in molti a chiedersi in Casa Democratica dov'è che il nuovo presidente intende portare il partito e il paese. E ci sono, e c'è qualche scetticismo per quello che diciamo le scelte che sta per fare Barack Obama in termini di uomini che dovrebbero guidare la Casa Bianca assieme a lui. Ora la Repubblica, terrorismo, massacro in India, Renzo Guolo firma la spada dell'integralismo, anche qui abbiamo una, come dire, già individuato Mumbai sotto scacco, come nel luglio del 2006 la capitale economica indiana è preda di attacchi simultanei, in quell'occasione morirono circa 200 persone, altre 700 furono ferite, secondo le autorità di Delhi a colpire fu nell'occasione il gruppo Lashkar e Toiba, formazione decisa non solo a rendere indipendenti il Kashmir ma addirittura a liberare i musulmani del nord e del sud dell'India, cacciando gli induisti da quelle aree. Un gruppo cresciuto nel magma del conflitto afghano, il Lashkar, l'ala armata dell'MDI, nato nel 90 nella provincia afghana del Kunar. Ora, tra le altre cose, il quotidiano La Repubblica, a pagina 5, titola New York, Al-Qaeda vuole colpire a Natale, quindi è evidente i timori non sono solo, anzi adesso abbiamo capito che l'India è stata colpita pesantemente, ma già da giorni si parlava di questa cosa. Arturo Zampaglione scrive: l'allarme è scattato alla vigilia del Thanksgiving, oggi in tutti gli Stati Uniti si celebra il giorno del ringraziamento con grandi abbuffate di tacchino e a Manhattan con la parata dei palloni giganti lungo Central Park West e poi Broadway. La festa è stata però rovinata da una comunicazione urgente dell'FBI, ha distretto di polizia e le autorità locale. C'è il rischio, hanno avvertito gli agenti federali sulla base di informazioni credibili ma prive di riscontri concreti, di un attacco di Al-Qaeda alla metropolitana di New York e ai treni dei pendolari in coincidenza con il periodo delle vacanze. Quindi anche lì bisogna dire che le preoccupazioni sono massime, perché mentre volevo segnalarvi sulla Repubblica taglio basso da Londra, il corrispondente Enrico Franceschi: Londra, ricetta per i consumi, arrivano i saldi a tempo. Beh, questa è la prima volta che la sento anch'io. Solo sconti solo dalle 7 alle 9.30 del mattino in una catena di negozi, lo stanno provando tutte, hanno anticipato il Natale decorando le vetrine suonando jingle bells già dalla fine di ottobre, hanno anticipato i saldi di fine stagione che di solito iniziano il 27 dicembre addirittura il 2 gennaio, facendoli cominciare a metà novembre, siccome a quanto pare non è bastato adesso tentano il tutto per tutto allungando l'orario e introducendo appunto questi quelli che vengono definiti saldi a tempo. Ecco, adesso diamo la linea alle anticipazioni del GR e agli aggiornamenti dall'India e poi torniamo alla rassegna stampa. È la stampa belletta, la stampa. Welfare pronti 3,5 miliardi, sale a 3,5 miliardi di valore complessivo delle misure sociali preparate dal governo per fronteggiare la crisi economica e che saranno approvate domani, scrive il Sole 24 Ore in prima pagina. Per estendere gli ammortizzatori sociali dei lavoratori atipici il fondo arriva a 1,2 miliardi, cui si aggiungono 1,5 miliardi per il bonus figli e un altro miliardo per finanziare la social card presentata ieri dal ministro Giulio Tremonti, che ha confermato l'invio delle lettere a 1,3 milioni di destinatari. Questo è il Sole 24 Ore in apertura. Torneremo su questa vicenda e sulla valutazione che i giornali danno della social card, ma voglio segnalarvi una cosa che leggo solo sul Sole 24 Ore. Claudio Gatti scrive a proposito di obbligazioni pericolose, quell'azzardo dell'acquedotto pugliese sui titoli GM. Il neo presidente Barack Obama si è impegnato a non far fallire il settore automobilistico americano, ma il rischio che General Motors, Ford e Chrysler finiscano in bancarotta rimane e soprattutto rimarrà per anni. L'impatto sarebbe drammatico, in gioco è il destino di 105 fabbriche, 13.000 concessionari e 240.000 dipendenti, più l'indotto. Ma le conseguenze non rimarrebbero circoscritte agli USA, e questa è la notizia che ci racconta Claudio Gatti, si farebbero sentire tra l'altro anche su 4 milioni di italiani. italiani, gli utenti di Acquedotto Pugliese S.P.A. Se saltassero i tre big dell'auto americana, si troverebbero infatti a fronteggiare un ammanco di decine di milioni di euro, quelli dell'Acquedotto, uno shock non da poco per una società che negli ultimi anni ha chiuso il bilancio con un attivo inferiore a mezzo milione di euro. A collegare il destino dei colossi di Detroit a quello della rete idrica pugliese è un'emissione obbligazionaria da 250 milioni di euro lanciata nell'estate del 2004, una storia finora raccontata solo in parte, che merita di essere ricostruita in dettaglio perché è emblematica di un certo modo di amministrare la finanza pubblica locale. E questo è davvero una notizia nuova che ci spiega il collegamento tra il possibile fallimento dei colossi automobilistici americani, statunitensi e l'acquedotto pugliese sui titoli GM. E torniamo però per un attimo, volevo ricordarvi a proposito di Sole 24 Ore che il Maurizio Tortorella, condirettore di Panorama Economy, sarà ospite della trasmissione Dietro la Notizia condotta dal direttore Gianfranco Fabi proprio stamane, e si parlerà non di finanza ma dei suoi riflessi sulla recessione e quindi di occupazione. Sì, questo stamane alle 8:30. Dicevo, io volevo però tornare un attimo al tema della social card, perché se l'Unità addirittura definisce la social card elemosina, Tremonti presenta la social card, 40 euro al mese per 1.300.000 anziani e poveri, esclusi gli immigrati, dubbi sulla copertura finanziaria, la CGL, idea vecchia. Questo, diciamo, con quindi un atteggiamento politico molto molto di presa di distanza. E invece Massimo Gramellini sulla Stampa ne fa un altro ragionamento. Diciamo la verità, la social card latinorum inglese per disegnare la carta dei poveri, dal punto di vista psicologico è una pessima mossa. Emana aria di depressione, richiama la tessera non aria dei tempi di guerra. Quanto più lontano dal Berlusconi ottimismo che il Presidente del Consiglio vorrebbe trapiantarci sotto la cute. Lui lo chiama il Presidente del Consiglio, vorrebbe trapiantarci sotto la cute. Ma ora che esiste bisognerà almeno farla funzionare con decenza, evitando che per i finti poveri diventi una tessera dei furbi e per quelli veri una patente di fallimento esistenziale. La carta che copre 40 euro di spese e di bollette almeno non porta inciso il nome del beneficiario, ma va comunque esibita all'impiegato d'ufficio o al commesso del supermercato, in mezzo a una folla di propri simili che osserverà e giudicherà. Non ho sufficiente stima del genere umano per immaginare che riesca a soffocare i suoi impulsi più meschini, però confido che la crisi compie il miracolo di tutte le crisi ed esalti lo spirito di fratellanza che, non basandosi su regole certe ma su afflati emotivi, ha sempre trovato negli italiani gli interpreti più sorprendenti. Il mio timore riguarda i possessori della tessera, spesso degli anziani giunti a un rendiconto di una vita. A costo di apparire patetico, mi inchino davanti a loro. Non devono sentirsi sconfitti né imbarazzati. Provino vergogna i ladri, i raccomandati di scansa fatica, ma chi è sempre sudato il suo pane ha diritto di passare attraverso questa gogna a testa alta. Sarà qualcun altro che, guardandolo, dovrà abbassarla. Questo è quindi in un modo la gogna senza vergogna, questo Massimo Gramellini nel suo Buongiorno sulla Stampa, che appunto si sofferma su questo aspetto della crisi. Vi è poi invece Augusto Menzolini, un retroscena, Letta e Tremonti, manovra tira e molla, Berlusconi vorrebbe dare di più, ma dice Giulio ha ragione sui numeri, il tesoro invece è fermo, i soldi sono quelli già stanziati, quindi non si deroga da questa cosa. Questo è sul quotidiano la Stampa. Il giornale, beh, intanto su un argomento diverso, un argomento di cronaca, il giornale prende posizione con Michele Brambilla. 10 anni al pirata, finalmente c'è un giudice anche a Roma. La buona educazione imporrebbe di non esultare per una condanna, perché quando qualcuno finisce in galera si usa dire che è una sconfitta per tutti, ma siccome a volte, per non dire sempre, è meglio essere maleducati che ipocriti, ci rallegriamo pubblicamente per i 10 anni che il GUP Marina Finiti ha inflitto a tale Stefano telefono lucidi un signore che nel maggio scorso a Roma aveva investito e ucciso due ragazzi che viaggiavano su uno scooter. Investiti, si badi bene, in queste condizioni. Era drogato, era ubriaco, andava a velocità folle, era passato con il rosso, era interdetto la guida, dopo aver travolto i ragazzi era scappato. È la condanna più pesante mai comminata in Italia per un incidente stradale. Il precedente record era di 6 anni e mezzo e spettava a Marco Ametovic, il giovane rom che il 23 aprile 2007 aveva ammazzato 4 ragazzi ad Appignano nel Tronto. Ecco, quindi questa è la l'editoriale di prima pagina del giornale, che ovviamente titola sull'India: strage negli hotel dei turisti, madre e bimba italiana in ostaggio. E poi Luca Fazzo invece porta avanti quella denuncia che ieri è stata fatta da Riformista, a cui arriviamo velocemente, con un racconto. Vi racconto il mio concorso da giudice, tutto truccato, marasma totale, candidati che chissà dove erano riusciti a portarsi appresso intere enciclopedie giuridiche, nessuno che sapeva che pesci pigliare. Questo è il racconto di V. Puntato, il suo nome ce l'ha il ministro della giustizia Angiolino Alfano, incalcia la lettera che V gli ha mandato per raccontare il clima surreale in cui si è svolto a Milano il concorso per 500 posti da magistrato. È una scena che non dimenticherò facilmente, dice, è il racconto di questo giudice. Dice: c'era chi gridava buffoni, dovete vergognarvi, sono 6 anni che mi preparavo per questo test. Insomma, ecco, questa questione dei concorsi truccati mi sa che prima o poi esploderà e anche avrà dei risvolti giudiziari, perché tra le altre cose ci sono già delle inchieste aperte in corso. Poi invece il giornale si occupa anche, vi ricordate ieri abbiamo letto una lettera del banchiere Giovanni Bazzoli sul Sole 24 Ore a proposito dei suoi rapporti con Zaleschi. Ecco, qui invece Nicola Porro firma un servizio dal titolo I banchieri intoccabili in crisi, imbarazzati dal caso Zaleschi, intesa Unicredit nella bufera. Il credito sociale di Bazzoli e il mercatismo radicale di Profumo fanno i conti con il crack del finanziere a cui hanno prestato 3,5 miliardi. Questo sul quotidiano Il Giornale. Il Riformista, vi dicevo, invece... adesso vediamo se abbiamo il tempo per leggere tutto il servizio, perché probabilmente dovremo dare fra un po' le notizie, la linea al traffico, ma insomma titola Alfano Ponzio Pilato. Lo scandalo di Roa, appunto quello del concorso. Dopo la nostra denuncia sul concorso truffa, scrive il Riformista, il ministro ci invia una nota e se ne lava le mani. Si moltiplicano le segnalazioni di chi è stato testimone impotente delle irregolarità al concorso per la magistratura di Roa. Il primo giorno i vietatissimi codici commentati in aula, secondo una misteriosa persona allontanata nel bel mezzo della dittatura delle tracce, e c'è chi confessa di aver copiato. Il CSM ha chiesto chiarimenti, l'ANM esprime preoccupazione, tutti chiedono la verifica dei fatti e l'adozione di eventuali provvedimenti. Il giudice Raffaele Cantone non esclude che arrivi all'annullamento, sarebbe grave per chi ha sostenuto la prova, ma il concorso è una cosa seria. Non possono esserci ombre. E il ministero, a lui toccava l'organizzazione, il resto sono affari della commissione. Questo scrive il Riformista. Adesso diamo la linea alle notizie sul traffico e poi torniamo all'ultima parte della rassegna stampa. È la stampa, Belletta, la stampa. Ingordigia americana. Sì, il Messaggero affida a Pierpaolo Benigno un'analisi del conto che ci tocca pagare dopo l'ingordigia americana. È una tesi diversa da quelle che si ritrovano sui quotidiani che analizzano la crisi esplosa negli Stati Uniti, la crisi finanziaria intendo. Questa crisi, scrive Pierpaolo Benigno, ha un'origine precisa e localizzata: l'ingordigia del consumatore americano. L'iperconsumismo, il consumo al di sopra delle proprie possibilità, sia presenti che future, il diritto all'oggetto e alla proprietà, un mondo di debiti, mutui e carte di credito. Il motore della crescita del mondo occidentale, negli ultimi 15 anni, su questa ingordigia del consumatore, sul diritto al credito, si è costruita un'altra ingordigia, quella del profitto esasperato del settore finanziario, titoli su titoli, credito su credito, banche di investimento che non si comportavano come banche di investimento, si mirava a profitti sulle quantità delle commissioni di intermediazione, sugli spread che miopemente venivano considerati sicuri, fra i rendimenti di quei titoli ora tossici e il tasso costo della leva finanziaria. Il meccanismo si è inceppato, il sistema è crollato, il segnale più forte di questo crollo è la caduta dei consumi nel terzo trimestre del 2008. Scrive ancora: il rischio più grande è che la fiducia crolli a tal punto che qualsiasi stimolo a consumare venga assorbito dal risparmio per cautelarsi nei confronti dell'incertezza futura, quella delle pensioni che sono decurtate dal crollo dei mercati azionari e finanziari, della disoccupazione che cresce. C'è una probabilità che il consumatore americano si trasformi in risparmiatore e quindi appunto non consumi più. Questo per possiamo leggere, abbiamo letto il Pierpaolo Benigno sull'editoriale di prima pagina del Messaggero. Continua la campagna, diciamo, e l'informazione, dillo al Messaggero, questa rubrica che è nata nel quotidiano romano, e io ricoverato e dimenticato, poi quella richiesta, 5.000 euro e ti opero, o paghi o aspetti, le trappole dell'intramoenia. Claudio Marincola, o Marincola, non so come si pronunci, racconta di questo ennesimo caso di mala sanità. Questo sul quotidiano Il Messaggero. Vi dicevo l'unità, beh, titola elemosina, come abbiamo detto, a proposito del social card, quindi una critica molto, molto forte. Vi è anche Staino invece: wow, Veltroni ha imparato a andar giù duro con Silvio, ha scoperto come fare, urla a Berlusconi e contemporaneamente pensa a D'Alema. Questo leggiamo sull'unità. Vediamo se poi troviamo anche qui il servizio guerra a Mumbai, 80 morti e caccia agli stranieri, attaccati gli hotel, turisti in ostaggio, stragi per strada e la paura degli italiani, per gli italiani, tra altre cose. Nell'IGR abbiamo sentito che non si sa ancora, non sono in grado ancora di dirci se tra le vittime ci sono anche degli italiani. Il quotidiano Il Foglio invece si occupa di anticrisi social club, ecco, diciamo in qualche modo mostra che ci sono dei diversi punti di vista all'interno del governo proprio in materia di politica economica, di social card, rispetto a Giulio Tremonti. Il miracolo, spegnere il malumore che è corso tra i ministri del welfare e della funzione pubblica da un lato e il ministero dell'economia dall'altro, non l'ha fatto neppure la social card annunciata ieri da Giulio Tremonti. Un bancomat prepagato da 40 euro al mese per i cittadini con reddito fino a 6.000-8.000 euro, costo totale 450 milioni di euro. La social card, leggiamo sul Foglio, infatti definita demagogica dall'opposizione, non cancella le differenze d'opinione intergovernative sulla misura straordinaria per tempi di crisi straordinaria, per usare le parole dette all'indomani del G20 dal premier Silvio Berlusconi, ovvero il DL anticrisi da approvare domani in Consiglio dei Ministri per una somma di 6-7 miliardi per un biennio. Il ministro del welfare Maurizio Sacconi, quello della funzione pubblica Renato Brunetta e quello per gli affari regionali Raffaele Fitto sono apparsi ultimamente preoccupati per un DL che si annuncia ispirato a criteri di inamovibile rigore tremontiano, a dispetto delle richieste di sgravi fiscali sulle tredicesime, prima sposate dal premier e poi ieri definite da Palazzo Chigi troppo onerose, e a dispetto delle delicate pressioni di Sacconi per un perfezionamento della manovra in modo da tenere conto di alcune richieste delle parti sociali. Questo si legge sul Foglio. Il fatto è che la cifra di 6-7 miliardi di euro, specie dopo la lettera Merkel-Sarkozy sulla necessità di allentare i vincoli di Maastricht, è apparsa agli uffici dei ministeri sociali poco cosa rispetto agli 80 miliardi di euro di cui parlavano Berlusconi e Tremonti dopo il G20. E quindi, ecco, insomma, si dice che ci sarebbero delle dissensi all'interno della maggioranza proprio su come orientare il denaro pubblico, e quindi fino a questo momento, secondo il Foglio, avrebbe prevalso la linea rigorosa di Giulio Tremonti. Il quotidiano Il Manifesto mette in prima pagina una lettera al presidente Obama. Presidente Obama, rinunci allo scudo. Gentile signor presidente Obama, la preghiamo di accettare le nostre congratulazioni per la sua vittoria nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Le rivolgiamo questo appello perché siamo preoccupati per la salvaguardia del processo democratico in Repubblica Ceca e per la sicurezza della comunità europea. Come lei sa, il governo Bush e quello ceco si sono accordati per installare in territorio ceco una base militare radar come parte del US National Missile Defense System. Nonostante i due terzi dei cittadini ciechi si oppongono a questo progetto, il governo ha firmato un accordo con gli Stati Uniti che tra breve dovrà essere ratificato dal Parlamento. E ancora si legge in questa lettera a Barack Obama: i parlamentari attuali sono stati eletti prima che avvenisse una discussione pubblica su questo progetto. Il coinvolgimento della Repubblica Ceca nel sistema antimissile NMD non faceva parte del loro programma elettorale. Il piano di installare parti di questo sistema nel cuore dell'Europa sta causando tensioni tra gli Stati Uniti, la Russia e l'Unione Europea e porterà a una nuova corsa agli armamenti. Temiamo che grazie a questo sistema avanzato l'Europa diventi il principale campo di battaglia di un potenziale conflitto internazionale che, a causa della presenza della base radar, la Repubblica Ceca diventi il bersaglio di un primo attacco. Ecco, distinti saluti, le chiediamo come presidente di un paese che a lungo ha simboleggiato la democrazia di rispettare la volontà dei cittadini cechi privati dei diritti democratici del loro governo. E ci sono 31 sindaci zona circa 70 km da Praga, che deve diventare sede del mega radar, base militare USA, parte del sistema antimissile, che vedrà anche l'installazione di una rampa di 10 missili intercettori in Polonia. Questa è la lettera pubblicata dal quotidiano Il Manifesto. E poi vi è invece il titolo di prima pagina, è Brunetta Card dal ministro Antifannuloni: 600 euro mensili d'aumento per la casta dei suoi dirigenti e consulenze milionarie per l'autority nel merito. A tutti gli altri dipendenti pubblici solo 70 euro, un lusso rispetto ai 40 della social card che il governo elargisce ai poveri. Questo è il titolo di apertura invece del quotidiano Il Manifesto. Infatti Galapagos firma un commento: 40 poveri euro. E con questa notizia io credo di aver terminato il mio tempo, quindi vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domattina.